D'altronde, siffatte riprese del mio amore per Albertine morta potevano verificarsi dopo un intervallo di indifferenza disseminato da altre curiosità, così come, dopo il lungo intervallo che era seguito al bacio rifiutato di Balbec, e durante il quale mi ero preoccupato assai più di Madame de Guermont, di André, di Mademoiselle de Stermaria, esso s'era riacceso quando avevo ricominciato a vederla di frequente. Ebbene, anche adesso, preoccupazioni diverse potevano dar luogo a una separazione, da una morta stavolta, in cui lei mi diventava più indifferente. Tutto ciò per la solita ragione che lei per me era una viva. E anche più tardi, quando l'amai di meno, continuò pur sempre ad essere per me uno di quei desideri di cui ci si stanca presto, ma che riprendono vigore quando li si lascia riposare per un po'. Inseguivo una viva, poi un'altra, poi ritornavo a una morta. Spesso era nelle più oscure regioni di me, quando non riuscivo più a formarmi nessuna idea precisa di Albertine, che un nome veniva per caso ad eccitare reazioni dolorose alla cui possibilità ormai non avrei più creduto, come i moribondi, il cui cervello non pensa più e nei quali si provoca la contrazione di qualche membro trafiggendolo con un ago. E per lunghi periodi tali eccitazioni mi capitavano così di rado che arrivavo al punto di cercare io stesso le occasioni d'un dispiacere, d'una crisi di gelosia, per tentare di ricollegarmi al passato, di ricordarmi meglio di lei. Infatti, poiché il rimpianto d'una donna non è che un amore reviviscente ed è sottomesso alle sue stesse leggi, la potenza del mio rimpianto era accresciuta dalle stesse cause che, viva Albertine, avrebbero aumentato il mio amore per lei, e fra le quali erano sempre figurati in primo piano la gelosia e il dolore. Ma il più delle volte tali occasioni, dato che una malattia, una guerra, possono durare ben al di là di quanto la più preveggente saggezza avesse calcolato, nascevano a mia insaputa e mi infliggevano colpi così violenti che pensavo assai più a proteggermi dalla sofferenza che a chiedere loro un ricordo. D'altronde una parola, mettiamo Chaumont, e persino una sillaba comune a due nomi diversi bastava alla mia memoria, come a un elettricista che s'accontenta del minimo buon conduttore, per ristabilire il contatto fra Albertine e il mio cuore, non aveva nemmeno bisogno di riferirsi a un sospetto per risvegliarlo, per essere la parola d'ordine, il magico sesamo capace di dischiudere un passato di cui non tenevamo più conto perché stanchi di vederlo, non ne avevamo più alla lettera il possesso. Ne eravamo stati diminuiti. Avevamo creduto che a causa di quella ablazione la nostra personalità avesse cambiato forma, come una figura che perdesse assieme a un angolo un lato. Certe frasi, per esempio, in cui ricorreva il nome d'una via, d'una strada dove era possibile che Albertine si fosse trovata, bastavano a incarnare una gelosia virtuale, inesistente, alla ricerca d'un corpo, d'una dimora, d'una qualche fissazione materiale o realizzazione specifica. Spesso era, molto semplicemente, durante il sonno che queste riprese, questi da capo del sogno, voltando d'un sol colpo parecchie pagine della memoria, parecchi foglietti del calendario, mi riportavano, mi facevano retrocedere a un'impressione dolorosa ma remota che da molto tempo aveva lasciato il posto ad altre e che ridiventava presente. Ciò s'accompagnava di solito a tutta una messa in scena maldestra ma avvincente che, illudendomi, mi metteva sotto gli occhi, faceva sentire alle mie orecchie quanto ormai datava da quella notte. D'altra parte, nella storia d'un amore e delle sue lotte contro l'oblio, il sogno non occupa forse uno spazio persino maggiore di quello della veglia, il sogno che non tiene conto delle divisioni infinitesimali del tempo, sopprime le transizioni, contrappone i grandi contrasti, disfa in un attimo il lavoro di consolazione così lentamente tessuto durante il giorno e propizia, di notte, un incontro con colei che avremmo finito col dimenticare, ma a condizione di non rivederla. Nel sogno, infatti, che se ne dica, possiamo benissimo avere l'impressione che quel che vi accade sia reale. A renderlo impossibile potrebbero essere soltanto delle ragioni tratte dalla nostra esperienza della veglia, esperienza che ci è in quel momento nascosta, Ed è così che quella vita inverosimile ci sembra vera. A volte, per una mancanza di illuminazione interna che difettosa faceva saltare la rappresentazione, i miei ricordi, messi in scena con esattezza, mi davano l'illusione della vita e mi sembrava davvero d'aver dato appuntamento ad Albertine, di raggiungerla. Ma mi sentivo, allora, incapace di muovere verso di lei, di pronunciare le parole che le volevo dire, di riaccendere per vederla la fiamma che s'era spenta. E altro non erano nel mio sogno queste impossibilità, se non l'immobilità, il mutismo, la cecità del dormiente. Così come nella lanterna magica si vede bruscamente una grande ombra che dovrebbe essere nascosta, cancellare la proiezione dei personaggi, ed è quella della lanterna stessa, o quella dell'operatore. Altre volte Albertina era dentro il mio sogno e voleva nuovamente lasciarmi, senza che la sua decisione riuscisse a turbarmi. Il fatto è che un raggio avvisatore era potuto filtrare dalla mia memoria sin nell'oscurità del mio sogno. E a togliere agli atti futuri di Albertine, alla partenza di cui mi dava l'annuncio, qualsiasi importanza, era, racchiusa dentro di lei, l'idea che fosse morta. Ma spesso, ancora più chiaro, questo ricordo che Albertine era morta si combinava senza distruggerla con la sensazione che fosse viva. Conversavo con lei. Mentre parlavo, mia nonna andava e veniva in fondo alla camera. Una parte del suo mento era caduta in briciole come marmo smangiato, ma io non ci trovavo niente di straordinario. Dicevo ad Albertine che avrei avuto delle domande da porle riguardo allo stabilimento di docce di Balbec e a una certa lavandaia della Turin, ma rimandavo la cosa più tardi perché avevamo tutto il tempo e non c'era più nessuna fretta. Lei mi diceva che non faceva nulla di male, che aveva soltanto il giorno prima baciato Mademoiselle Vanteuil sulle labbra. Come? È qui? Sì, anzi, è ora che vi lasci, devo andare subito da lei. E siccome da quando Albertina era morta non la tenevo più prigioniera in casa mia come gli ultimi tempi che era viva, la sua visita a Mademoiselle Vanteuil mi allarmava. Non volevo darlo a vedere. Albertine mi diceva che l'aveva baciata e basta, ma probabilmente ricominciava a mentire come quando negava tutto. Ben presto non si sarebbe più accontentata, probabilmente, di baciare Mademoiselle Vanteuil. Da un certo punto di vista avevo torto a preoccuparmi in quel modo perché, stando a quel che si dice, i morti non possono né sentire né far nulla. Lo si dice. Ma questo non impediva alla nonna, che era morta, di continuare comunque a vivere da parecchi anni e in quel momento di andare e venire nella camera. E certo, una volta che fossi stato di nuovo sveglio, quell'idea di una morta che continua a vivere mi sarebbe diventata tanto impossibile da capire quanto lo è ora da spiegare. Ma l'avevo già formulata tante volte nel corso di quei periodi passeggeri di follia che sono i nostri sogni, che aveva finito col diventarmi familiare. La memoria dei sogni può diventare durevole quando si ripetono abbastanza spesso. E immagino che, pur essendo oggi guarito e tornato alla ragione, debba comprendere un po' meglio degli altri cosa volesse dire, nel corso d'un periodo peraltro concluso della sua vita mentale, l'uomo che, volendo spiegare ai visitatori di un ospedale d'alienati di non essere affatto lui fuori di senno, malgrado quanto pretendeva il medico, metteva a confronto la sua sanità mentale con le folli chimere di ciascun malato e concludeva: «Ecco, quello là, che sembra normalissimo, non lo direste mai un matto. Ebbene lo è, crede di essere Gesù Cristo, cosa impossibile!» Dal momento che Gesù Cristo sono io. E a lungo, dopo la fine del mio sogno, continuava a tormentarmi quel bacio che Albertine m'aveva detto di aver dato con parole che ancora mi sembrava di sentire. E in effetti dovevano essermi passate ben vicino alle orecchie, visto che ero stato io stesso a pronunciarle. Per tutto il giorno continuavo a parlare con Albertine, le facevo domande, le perdonavo, rimediavo all'oblio di cose che avevo sempre voluto dirle quando lei era in vita. E di colpo ero preso dallo spavento, pensando che all'essere evocato dalla memoria al quale si indirizzavano tanti discorsi non corrispondeva più nessuna realtà. Che la distruzione s'era impadronita delle varie parti del viso, cui solo l'impulso continuo della volontà di vivere, ora annientata, aveva dato l'unità di una persona. Altre volte, pur non avendo sognato, appena sveglio sentivo che dentro di me il vento era mutato. Soffiava freddo e continuo da un'altra direzione, dal fondo del passato, portandomi lo scampanio di ore lontane, fischi di partenze che abitualmente non percepivo. Cercavo di prendere in mano un libro. Riaprii un romanzo di Bergotte che avevo particolarmente amato. I suoi personaggi simpatici mi piacevano molto. E riconquistato ben presto dal fascino del libro, mi misi a sperare, come un piacere personale, che la donna cattiva fosse punita. Gli occhi mi si inumidirono quando la felicità dei fidanzati apparve certa. Ma allora, esclamai disperato, da tutta l'importanza che attribuisco a quanto può aver fatto Albertin, io non posso concludere che la sua personalità sia qualcosa di reale ed ineliminabile, qualcosa che un giorno ritroverò uguale in cielo, visto che invoco con tanti voti, aspetto con tanta impazienza, accolgo con tante lacrime il successo di una persona che non è mai esistita se non nell'immaginazione di Bergotte, che non ho mai vista, il cui volto sono libero di figurarmi a mio piacere. In quel romanzo poi c'erano fanciulle seducenti, corrispondenze amorose, viali deserti per incontrarsi e questo, ricordandomi che si può amare clandestinamente, risvegliava la mia gelosia, come se Albertin avesse ancora potuto passeggiare in viali deserti. E si parlava anche d'un uomo che rivede dopo 50 anni una donna che da giovane ha amata e non la riconosce, si annoia accanto a lei. E questo, ricordandomi che l'amore non dura per sempre, mi sconvolgeva, come se fossi destinato a separarmi da Albertin e a incontrarla poi con indifferenza quando fossi stato vecchio. E se mi capitava sotto gli occhi una carta della Francia, il mio sguardo spaventato faceva in modo di non incontrare la Touraine per non provare gelosia e, per non sentirmi infelice, la Normandia, dove erano segnate quantomeno Balbec e Doncières, fra cui situavo tutte le strade che tante volte avevamo percorso insieme. In mezzo ad altri nomi di città o villaggi di Francia, nomi che si potevano soltanto leggere o sentire, il nome di Tours, per esempio, sembrava composto diversamente, non di immagini immateriali, ma di sostanze benefiche che agivano in modo immediato sul mio cuore, accelerandone i battiti e rendendoli dolorosi. E se tale forza si estendeva fino ad alcuni nomi, diventati a causa di Albertin tanto diversi dagli altri, come stupirsi, restando più vicino a me, limitandomi soltanto a lei, che la sua origine fosse una ragazza probabilmente uguale a tante altre, che quella forza per me irresistibile e alla cui produzione sarebbe potuta servire qualsiasi altra donna, fosse risultata da un viluppo, dalla messa in contatto di sogni, desideri, abitudini, tenerezze, con l'indispensabile interferenza di sofferenze e di piaceri alternati. E questo continuava dopo la sua morte, bastando la memoria ad alimentare la vita reale, che è cosa della mente. Ricordavo Albertin che scendeva dal vagone e mi diceva d'aver voglia di andare a Saint-Martin-les-Vêtus e la rivedevo anche prima col suo berretto abbassato sulle guance. Ritrovavo possibilità di gioia verso le quali mi slanciavo dicendomi «Saremmo potuti andare insieme fino a Camperlé, fino a Pont-Aven». Non c'era vicino a Balbec stazione in cui io non la rivedessi, di modo che quella terra, come un paese mitologico conservato, mi rendeva vive e crudeli fra le leggende del mio amore, le più antiche, le più affascinanti, le più cancellate da quanto era successo poi. Ah, che sofferenza se mai mi fosse toccato di coricarmi di nuovo in quel letto di Balbec, attorno al cui telaio di rame, come attorno a un perno immutabile, a delle barre fisse, la mia vita aveva compiuto i suoi spostamenti, le sue evoluzioni, appoggiandovi successivamente le gaie conversazioni con la nonna, l'orrore della sua morte, le dolci carezze di Albertin, la scoperta del suo vizio e adesso una vita nuova, in cui guardando le librerie vetrate ove si rifletteva il mare, sapevo che Albertin non sarebbe mai più entrata. Non era forse quell'albergo di Balbec come uno scenario unico di un teatro di provincia dove si recitano da anni le pièce più disparate, che è servito per una commedia, una prima tragedia, una seconda, un testo puramente poetico. Quell'albergo che affondava ormai in un passato abbastanza remoto della mia vita. E sempre fra le sue pareti, in epoche via via nuove della mia vita, il fatto che solo quella parte, i muri, le librerie, lo specchio, rimanesse la stessa, mi faceva sentire con maggior chiarezza che alla fine ero io, era il resto ad essere cambiato, dandomi così quell'impressione che non hanno i bambini, convinti nel loro pessimistico ottimismo che i misteri della vita, dell'amore, della morte siano riservati, che sia loro impossibile farne parte e che con dolorosa fierezza scopriamo aver fatto corpo nel corso degli anni con la nostra vita.